Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Di stare lassù. Sarebbe troppo semplice raccontare la storia di questa canzone come la vittoria di un giovane emigrante che raggiunge il successo diventando il simbolo di un'Italia che si rialza dopo aver perso una guerra. Vogliamo partire dalla Puglia per rivivere alcuni episodi della vita del protagonista di questa avventura, per sottolineare quanto a volte il successo possa dipendere dal concatenarsi di eventi fortunati, da incontri casuali, da situazioni impreviste, che trasformano la vita di un aspirante ragioniere in quella di Mister Volare. Oggi vi raccontiamo la storia di Domenico Modugno. Cioè, io ero a San Pietro del Nodi che dovevo studiare, facevo l'ultimo anno di ragioneria. Allora, quando ho capito che per mio padre era importantissimo io diventassi ragioniere, che mi impiegassi a uno stipendio fisso al mese per tutta la vita, quando ho capito che era, cioè, che era una cosa definitiva, o diventare ragioniere o scegliere la libertà. E così un giorno, all'insaputa di tutti, oddio, mia madre lo sapeva, ma mio padre non sapeva niente. E così sono partito, sono andato a Torino, sono andato alla città più lontana da San Pietro Vernodi, voglio andare al nord, al più nord possibile. Quando si è giovani si fanno queste cose, no? Quanti di voi hanno pensato almeno una volta di scappare per cercare fortuna? Certo, nel 1947 l'Italia è ben diversa da quella che conosciamo oggi. Nelle grandi città ancora si risanano le ferite della guerra. In campagna lentamente si ricomincia a raccogliere i frutti del lavoro nei campi. E un ragazzino di 18 anni che cos'altro può desiderare nella vita se non scappare via dalla miseria di un paesino del sud per vedere la città che più di tutte rappresenta la rinascita industriale del paese? Torino. Sono queste persone che hanno fatto grande l'Italia, uomini che hanno avuto voglia di sperare di nuovo anche quando c'era poco da stare allegri. Ho fatto il cameriere, vendevo i copertoni, lavoravo in una fabbrica di notte, facevo i copertoni di biciclette, di motocicletta e automobili. E poi? Poi alla fine questi copertoni io andavo a Porta Palazzo a venderli, tutti quanti vendevano perché in quel periodo, sembra strano, non si trovavano copertoni, però Porta Palazzo era piena di Pirelli, di Michelin. Io andavo con questi copertoni, si chiamavano Giannuzzi. Dico, volete comprare i Giannuzzi? Nessuno conosceva i Giannuzzi e io non riuscivo a vendere mai un copertone. Io tengo una sveglietta a casa quando cammina, fa tic tac tic tic. Io tengo una sveglietta ca quando mi suona, fa drin drin drin drin drin drin drin drin drin. Ma gira la solo solo la mattina quando torno, mi rovina, non mi sono, non cammina, non la posso mai lazzare. E che io fare se mi voli molto bene, bene, bene, bene, bene, se mi stringi di catini, di l'amore che io fa. La vita è difficile e se non si riesce a trovare un buon lavoro alla fine bisogna sapere anche accettare la sconfitta. Domenico Modugno si accorge dopo 6 mesi di tentativi che Torino non è la città giusta per cambiare vita e decide di tornare a casa. Insomma, io sono andato via perché volevo fare qualche cosa di diverso, cioè il punto preciso l'avevo, volevo cantare, volevo fare l'attore, poi ho scoperto che a Torino il cinema non si faceva e non si cantava neanche a Torino. Sì, è una bella città così, ma insomma per trovare una spinta per farsi conoscere, non era una città. Poi faceva freddo e dove fa freddo bisogna scappare via. Scappare. Sembra quasi una necessità quella di Domenico Modugno. Scappare dalla famiglia per poi però ritornare. Scappare dal freddo di una città che non riesce a dargli quello che sta cercando. Il carattere esuberante di Modugno non trova pace. E così è appena tornato a casa ed eccolo di nuovo mettere le sue poche cose in una valigia e tentare la fortuna in un'altra città, dove il cinema invece c'è davvero, Roma. Sono andato a Roma, ho bussato ai frati camaldolesi, a San Gregorio al Celio. Anche lì sono andato, era l'anno santo, mi ricordo, il periodo dell'anno santo, quindi avevo la scusa che ero un pellegrino, che era, cioè, anch'io sarei andato all'anno santo, però il mio scopo era un altro. Quello di Roma è un ambiente ben diverso da quello di Torino. Prima di tutto fa meno freddo. E poi a Roma c'è il cinema, il grande cinema, quello di Cinecittà. Siamo nel 1950 e la RAI non ha ancora iniziato le sue trasmissioni. La televisione non esiste. La gente si diverte ascoltando le trasmissioni radiofoniche, oppure andando al cinema o a teatro. Si esce di più la sera e nei locali. Nei ristoranti c'è sempre qualcuno che suona e canta per intrattenere i clienti. Non è difficile per Modugno, che sa suonare la fisarmonica e la chitarra, trovare qualche lavoretto extra. Poi ho fatto il concorso al centro sperimentale, l'ho vinto, ho risolto un problema grossissimo perché mi davano 50.000 lire al mese di borsa di studio e più un pasto gratis al giorno. La sera andavo in via Margutta a cantare in un altro ristorante dove mi davano 1.000 lire al giorno e un pasto gratis al giorno, e quindi ero... Aveva risolto. Da quel momento ho risolto il mio problema. Vita da vita mia, non m'importa se ho passato sulle lacrime m'ha dato, resta con me. La vita di Domenico Modugno comincia a prendere la direzione giusta. Roma ha accolto il cantastorie proveniente dalla Puglia con in tasca 4 soldi e se lo sta coccolando. I primi lavoretti come cantante nei locali delle calde notti romane. Il corso al centro sperimentale di cinematografia, dove Modugno impara a recitare, a trasmettere emozioni con uno sguardo, un gesto. Una serie di coincidenze fortunate che nella vita non guastano mai. Io c'ho un proverbio che diceva mio padre, che lo ripeto sempre perché lo trovo giusto. Cioè, per avere successo nella vita, diceva mio padre, primo, bisogna avere fortuna. Secondo, bisogna avere fortuna. Terzo, bisogna avere fortuna, se no... Un proverbio semplice come le sue origini pugliesi, o meglio siciliane. O forse erano pugliesi. No, perché proprio da questo equivoco nasce il primo evento fortunato che apre a Domenico Modugno le porte della radio, uno strumento fondamentale per far ascoltare le proprie canzoni in dialetto pugliese, anzi no, siciliano. A San Pietro Vernotico, dove parlano un dialetto che è vicinissimo al siciliano. Proprio, infatti le prime canzoni che ho cominciato a fare io le ho fatte in questo dialetto, poi le ho fatte sentire, ognuno che sentiva questa canzone diceva: siciliano, vero? Una canzone siciliana, no, pugliese, no, non è possibile, il pugliese è cacchire, cacurca, venuto, cadu, il barese, il pugliese conosciuto, non è conosciuto con questo accento. Così poi sono andato, ho fatto delle audizioni alla radio e hanno detto: simpatiche queste canzoni siciliane, no, pugliesi, no, guarda, sono siciliani, pugliesi. Insomma, alla fine ho scoperto che siciliano era più importante del pugliese e così sono passato per siciliano. Basta fare qualche spettacolo in Sicilia per raffinare il dialetto ed ecco a voi il pugliese Domenico Modugno pronto a rallegrare le serate nei ristoranti, cantando un repertorio esclusivamente in siciliano. Ma parlavamo di fortuna, giusto? Allora capita che frequentando Cinecittà Modugno partecipi come comparsa ad alcuni film. In particolare ce n'è uno in cui un soldato siciliano, per fare addormentare un bambino, deve cantare una ninna nanna in dialetto. Modugno canta «Ulie ci tiene Ulie», una ninna nanna popolare grazie alla quale viene chiamato a esibirsi alla trasmissione radiofonica «Il trampolino». E non c'è nome più azzeccato per dare il via a una carriera. «Ulie ci tiene Ulie ci tiene Ninna nanna beddu mio, dormi dormi nucchia in gire ninna nanna. Ucce bedda sta cerasa, ca ognuno se o le casa, ninna nanna. Se a casa vostra avete un 78 giri di Domenico Modugno contenente la canzone La cicoria nel lato A e Ninna nanna nel lato B, beh, forse vi conviene tenerlo in cassaforte. Perché questo disco è il primo singolo di Mimmo Modugno e dal momento che alla sua uscita, nel 1954, non riscuote che un debole successo, è una vera rarità per collezionisti. Però grazie alla radio la canzone arriva alle orecchie di tanti italiani. Tra questi ce n'è uno che di orecchio per i nuovi talenti ne ha veramente parecchio. Si chiama Franco Nebbia ed è il primo magnifico destino che incrocia la strada di Domenico Modugno. Terminata la guerra sono apparsi da noi i primi jazz hot club. Erano formati da pionieri del jazz, da gente che si era allenata in silenzio. Il migliore di questi complessi ha un nome sonoro, New Orleans Jazz Band. I virtuosi sono tutti ottimi ragazzi italiani, 8 appassionati della forma più spontanea di jazz. Sono 8 e suonano per 30. Franco Nebbia è uno di questi 8 ragazzi. Il jazz ce l'ha nel sangue e nella sua carriera collabora con tanti cantanti come Renato Raschel, Milva, le gemelle Kessler. Quando ascolta la Ninna Nanna di Modugno decide di metterci mano e la rielabora dandole un tocco meno tradizionale. E a quel punto la fortuna ancora una volta ci mette un po' del suo. È capitato il momento della fortuna, è arrivato in quel periodo Sinatra in Italia e volevano fare un omaggio a Sinatra, un omaggio così... cercavano, siccome Sinatra è siciliano, cercavano uno che cantasse in siciliano una canzone in omaggio di Frank Sinatra. Pensa alla fortuna, l'unico che cantava siciliano in quel momento ero io perché avevo fatto un'audizione alla radio e mi conosceva. Frank Sinatra ascolta la Ninna Nanna e non solo apprezza molto la canzone, ma chiede anche di poter conoscere il cantante che l'ha eseguita, chiedendo una registrazione da portare in America per poterla incidere in un suo disco. Ma ci pensate? The Voice, che si interessa di uno sconosciuto cantastorie pugliese, anzi, no, siciliano. Beh, insomma, è una di quelle occasioni che possono cambiare la vita. E infatti è proprio così. Mi hanno telefonato a casa, dice, guarda che c'è Frank Sinatra che vuole cantare questa canzone. Allora sono andato da uno per farmi scrivere la canzone perché non sapevo la musica. Avanti, indietro, finalmente ho portato questa canzone e Frank Sinatra invece era partito. La canzone se ne è dimenticata. Poi mi dice, me la manderà a Londra. Insomma, non l'ho visto più e la canzone non l'ha cantata più. Però questo fatto che Frank Sinatra si interessasse a questa canzone di Modugno, chissà, lui l'avrà fatto proprio per dire che mi hanno fatto questo omaggio, diciamo che è una bella canzone, forse non gli piaceva neanche. Però questo fatto ha smosso un ambiente di musicisti, un ambiente della radio, cioè, se una canzone di questo piccolo cantantino in siciliano è piaciuta a Frank Sinatra, vuol dire che questo c'ha altre canzoni. Così il nome di Modugno comincia a farsi strada tra i corridoi della RAI, tanto da fargli firmare il suo primo contratto discografico con la RCA. Sono gli anni in cui vengono incise canzoni come La donna riccia, Vecchio frac, Lupisci spada, che però non ottengono quel successo immediato che ogni cantante rincorre. Il pubblico è abituato a un certo genere musicale e Modugno rappresenta una piccola rivoluzione. Perché io sentivo il bisogno di un linguaggio nuovo, soprattutto, forse di una lingua nuova, perché l'italiano all'epoca veniva usato, non si sa perché, come se non ci fossero vocaboli, erano sempre le stesse cose, si parlava sempre di fiori, di dolori, d'amore, di mamme, di scarpette, scarpine, scarpone, bandiere... E io dicevo, io bisogna che canti qualche altra cosa. Però in italiano, stranamente, veniva fuori una lingua difficile, cantare qualcosa di diverso, di nuovo. Allora io dico, io ho un'altra lingua, che è la lingua mia, la lingua del mio paese, delle Puglie, di San Pietro Vernotico, che rassomiglia molto al siciliano, allora ho incominciato a fare queste canzoni con queste ispirazioni diverse. Io, mamma, te tu, passeggiamo per tu l'ed, noi annanze, mamma, t'arrete. Io, mamma, te tu, sembra presse cose pazze, che sta bene puro viaggio nozze. Iammo cinema a ballare, si cerca a me, c'è squaglia, come un carabiniere che la vena ci ha fermato. Ma innamorate, sono rassegnate, non reagisco più. Domenico Modugno in 2 anni pubblica 2 album. Si sposa con Franca Gandolfi, un'attrice conosciuta al Centro Sperimentale di Cinematografia, e comincia a vedere il suo futuro un po' più roseo di quando ha lasciato la provincia di Brindisi per inseguire il successo. Ma il vero successo in Italia si raggiunge solo andando a Sanremo. E non basta partecipare al festival, bisogna vincerlo. Nel 1956 Modugno gareggia al Festival di Sanremo come autore, non come cantante. La sua canzone Musetto viene interpretata da Gianni Marzocchi, ma si classifica soltanto 8ª. No, per vincere Sanremo bisogna scrivere una canzone che sia al di sopra dell'ordinario. Qualcosa che non sia solo un motivetto orecchiabile ma senza significato. Il pubblico di Sanremo ascolta anche il testo, è un giudice esigente. Bisogna trovare un'idea unica. Io penso sempre che la nascita di una canzone è un fatto misterioso, proprio come, non so, è come la miniera, no? Come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, o il cercatore d'oro che va lì a sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trovo. Insomma, la canzone, per me, le note stanno nell'aria. Cioè, scoprire tre note che messe insieme sono un motivo di successo, un motivo che cantano tutti, è veramente una scoperta che io non so perché. Inseguire queste tre note o trovare le parole giuste può essere anche un colpo di fortuna, o forse no, perché ci sono persone che hanno un dono particolare, quello di trovare sempre le parole giuste per descrivere una situazione in modo diverso da tutti gli altri. Non si parla di poesia, scrivere il testo di una canzone è una cosa ben diversa, però ci sono testi che possono scatenare emozioni talmente forti da sconvolgere il cuore di chi li ascolta, oppure rivoluzionare l'intero mondo della canzone italiana, come è accaduto a Domenico Modugno quando ha incontrato il suo secondo magnifico destino, Franco Migliacci. Se uno stato d'animo musicale, che io lo penso in una determinata maniera, e non mi esce fuori la parola giusta, Migliacci è quello che trova la parola, cioè questo stato d'animo lui lo riprende e lo rigenera in un altro senso, no? Pigliateci te pare, ci vuette spesi, però non te pigliare una donna riccia, con ricci e ricci tetti, issa d'incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, no, no, no, no, riccia no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. I magnifici destini. 1 febbraio 1958. Dal salone delle feste del Casinò di Sanremo va in scena la serata finale dell'ottava edizione del Festival della Canzone Italiana. Fino a quel momento Sanremo è stata una passerella di cantanti, interpreti di canzoni scritte da altri, canzoni tradizionali che trattano temi che oggi definiamo nazional popolari. Fino a quella sera nessun autore ha mai interpretato la propria canzone. Fino a quella sera. C'era un'aria nuova a Sanremo, ricca d'ossigeno, e una ventata fresca è stata la canzone vincitrice, un autentico amplen. La canticchieranno tutti, ma non era facile dare il colore giusto a questo blu dipinto di blu. I 20 anni della rivelazione, Johnny Dorelli ci sono riusciti. Quanto a Domenico Modugno, egli era naturalmente l'ideale interprete di se stesso. Nel gesto di Modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo. L'entusiasmo di chi ha dato la prima allegra scrollata a quel vecchio edificio pieno di zucchero e ragnatele nel quale rischiava di adagiarsi la canzone italiana. È strano sentir dire queste cose all'ottava edizione del festival, e soprattutto pensando che da allora si è ormai arrivati al numero 63, quello di quest'anno. Eppure quella edizione ha segnato una svolta epocale nella storia del festival, perché nel blu dipinto di blu è una canzone diversa, rivoluzionaria, che irrompe negli schemi della canzone tradizionale. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù. La canzone italiana più famosa di tutti i tempi. Ecco cos'è nel blu dipinto di blu. Ma anche il successo mondiale di questa canzone lo si deve a un colpo di fortuna. Senza un particolare episodio, questa canzone sarebbe rimasta uno dei tanti successi del festival che ancora oggi sopravvivono al passare del tempo. Se non fosse stato per quel tizio alla radio... Quando Volare ha vinto il festival qui in America non sapevano neanche che esistesse il Festival di Sanremo. È stata una fortuna anche lì. C'è stato uno della radio, che ha una stazione radio a New York, che era in viaggio di piacere qui con la moglie, ha sentito questo disco, questa canzone, l'ha presa, gli è piaciuta, è andata a New York e ha incominciato a suonare questo disco. Dice, voi, io sono stato in Italia e l'ha portato come souvenir, proprio una volta lo mette sto disco. Invece, una volta messo sto disco, sono arrivate decine di lettere che lo volevano risentire. L'ha rimesso, sono arrivate altre lettere. Insomma, piano piano in 3 mesi è in tutta l'America è scoppiata a volare, ma è scoppiata così, non perché veniva da un festival, è stato per una fortuna. Magari se questo qui non fosse andato in America con questo disco, la canzone non l'avrebbero suonata, chi lo sa? Ma chi lo sa? Però la fortuna ha girato dal verso giusto e Mimmo Modugno è diventato Mister Volare con quel suo gesto liberatorio di spalancare le braccia ogni volta che interpreta la canzone. Uno stratagemma per accentuare la capacità comunicativa del ritornello e che Modugno ha rubato al mestiere dell'attore, frutto dei suoi studi. Io quando recito canto un po' e quando canto recito pure e quindi è insomma una cosa e l'altra messa insieme. Non le posso scindere perché io comunque cerco di rappresentare sempre qualcosa. Un cantattore, come spesso ama definirsi, un artista come se ne trovano tanti negli Stati Uniti. Persone che sanno cantare, ballare, recitare e quindi si adattano a ruoli diversi. In Italia non sono in tanti ad essere capaci di conciliare il mestiere dell'attore con la voglia di cantare. E per fortuna c'è qualcuno che è in grado di valorizzare queste doti. Siamo rimasti in 3 somari e 3 briganti sulla strada longa, longa di Girgenti. Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa il postiglione, 2 sorvegliano di fuori, uno sfoglia il viaggiatore, ce ne andiamo. Questo è un frammento della commedia musicale Rinaldo in campo, interpretata con grande successo da Domenico Modugno e Delia Scala. La commedia musicale viene messa in scena per la prima volta nel 1961 a Torino, al Teatro Alfieri, proprio in occasione dei festeggiamenti legati al centenario dell'Unità d'Italia. La regia è affidata a una coppia di impresari che hanno creato e fatto grande la rivista firmando alcune delle più belle canzoni della storia della musica italiana, Pietro Garinei e Sandro Giovannini. Sono loro il terzo magnifico destino di Domenico Modugno. Che dici? Senza pace io, è questa, sta terra che brucia in mezzo al mare e noi bruciamo con essa, questa la pace mia, e io per questa combatto, e un giorno essa renderò libera, ma per darla ai figli suoi, e non a loro straniero. E poi basta che questi non sono discorsi per figli. Già, perché per te le donne non dovrebbero... Silenzio! Alla donna la bocca ci deve servire soltanto per respirare, mangiare e baciare il suo uomo. Quando il bacio le viene richiesto. La storia del brigante siciliano Rinaldo Dragonera, una specie di Robin Hood all'italiana, ottiene un successo strepitoso. Garinei e Giovannini hanno la vista lunga e l'esperienza sul campo. Raramente prendono delle cantonate. Quando scelgono Modugno per la parte del protagonista e gli affidano la scrittura di tutte le musiche, sanno già che la commedia diventerà un successo. Già, il successo. Domenico Modugno lo ha ormai raggiunto, nella sua carriera non sbaglia più un colpo. La sensazione che si prova quando si sente l'applauso del pubblico è difficile da descrivere. Bisogna provarla e sentirsi addosso il calore della gente. Pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ma il pubblico di solito, secondo me, è sempre un unico, un'unica entità da conquistare. Da conquistare, ma non nel senso da dominare, da conquistare con amore, cioè per me è una questione far l'amore con il pubblico, e questo pubblico improvvisamente diventa un fatto d'amore che deve nascere, se non nasce rimane fregge, non ci si innamora, cioè, quegli incontri d'amore che possono essere un grande amore oppure niente. Allora tutte le sere io cerco di stabilire con il pubblico un contatto che alla fine deve diventare d'amore, nel senso io lo devo amare e lui mi deve amare. Questo rapporto con il pubblico Domenico Modugno lo ha avuto e come, con i concerti in mezzo mondo, i bagni di folla negli Stati Uniti, diventando in breve tempo un simbolo per tutti gli italiani, indistintamente, non solo di quelli che hanno trovato fortuna all'estero. L'orgoglio di aver fatto qualcosa di grande, unico e irripetibile è un traguardo che si deve assaporare lentamente e gustarselo tutto, fino all'ultima goccia. L'applauso è il complimento più bello, più autentico, più secco, senza bisogno di tante frasi, di tante cose. Quando c'è l'applauso ed è forte, a secondo dell'intensità, più intenso è l'applauso, più il complimento è grande, più uno è felice, più si solleva. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle. I magnifici destini. La fortuna, con i suoi mille risvolti, può diventare un elemento determinante per cambiare il corso degli avvenimenti. Lo sapeva bene il padre di Modugno quando raccontava scherzoso un vecchio proverbio. Ma quando si tocca il tetto del mondo e si arriva a livelli così alti che nessuno ti può raggiungere, allora, può cominciare ad essere difficile rimanere lì. La fortuna è un ricamo grandissimo di piccole cose che si devono unire una all'altra, una all'altra, una all'altra, e fanno il grande successo. Cioè, non si può dire, dice, c'è stato quel colpo di fortuna e poi è cambiato tutto. No, questa è la lotteria di Merano, insomma, è la Totocalcio, questa è la vera. Ma io la fortuna che intendo io è in un altro senso, è un concatenarsi di episodi che accadono nella vita di un uomo che, cioè, portano quest'uomo ad avere più successo di un altro. Ma può anche capitare che la fortuna ti volti le spalle. Ed è proprio ciò che accade a Modugno intorno alla metà degli anni 60, quando quell'abbraccio incredibile ricevuto per anni dal suo pubblico sembra improvvisamente venire a mancare. Modugno vive un periodo di circa 3 anni in cui i risultati di vendita dei dischi sono ben lontani da quelli raggiunti in passato. Certo, non si può parlare della fine di una carriera, ma come Modugno stesso racconta, quando il rapporto con il pubblico finisce, sembra la fine di un amore. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato. Io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. Con la canzone Ma come hai fatto sembra ritornare la speranza di riconquistare le posizioni più alte della classifica, ma è solo un'illusione. In realtà, qualche anno dopo, Modugno confessa che, pur avendo scritto la canzone in dialetto napoletano, è stato costretto a tradurla in italiano dalla casa discografica, facendole perdere così gran parte del suo fascino. Non dimentichiamo che per Modugno buona parte del successo di una canzone sta nell'interpretazione. Gestualità affinate come attore di teatro. Già, il teatro. Se una soluzione esiste, deve arrivare da lì, dove musica, testo e interpretazione diventano un'arma imbattibile per conquistare il pubblico. La canzone giusta è quella scritta insieme a una vecchia amica, conosciuta proprio nei camerini. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare, a ricordare. In teatro con lui, e allora tutte le sere in camerino, no, lui si va prima in teatro, no, già alle 7 sei lì. Io non mi rendevo conto della fortuna che avevo di averlo lì a un metro, metteva la sedia lì, poi i camerini sono piccoli, e cominciava con la chitarra a suonare le canzoni. E dato che sono molto estroverso, sono sempre stato, ho detto: guarda che io scrivo le poesie, le cose, così e cos'ha. Ancora un magnifico destino che incrocia la vita di Domenico Modugno è quello di Enrica Bonaccorti, che avete appena sentito. Lei e Mimmo si ritrovano a lavorare insieme nella commedia Mi è caduta una ragazza nel piatto e diventano amici. Poi ancora una volta la fortuna si dà da fare e crea la situazione giusta per far nascere qualcosa di magico. E un giorno mi dice: guarda, qua c'è questa musica che ha già delle parole. Dice: eh sì, è carina, però sei un po' sciapa, un po' cosa. Non è che tu hai un'idea? L'idea Enrica Bonaccorti l'ha avuta a 14 anni, quando ha scritto sul suo diario una frase destinata ad essere cantata da milioni di innamorati. Prende un po' di coraggio e la fa leggere a Modugno. Guarda un po' qua cosa c'è scritto. La lontananza è come il vento, spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi. Mimmo è impazzito per questa frase, mi ha detto scrivi, ho detto no Mimmo, stasera è tardi, era dopo teatro, dopo la cena del teatro, era l'una, io avevo mal di pancia, scrivi, no io non scrivo, scrivi quello che vuoi, non posso fare la medica, scrivi, mi ha fatto, quello che ti ricordi scrivi, e io mi sono messa a pancia giù sul divano della hall a scrivere, mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove, ed è rimasto quello il parlato. Un'occasione fortuita, una frase scritta chissà in quale situazione sul diario di una ragazzina. Ed ecco nascere uno dei più grandi successi di Domenico Modugno. Una carriera che neppure il tempo è riuscita a corrompere, perché quando si scrive col cuore, si scrive per sempre. Beh, io di progetti veramente non li ho realizzati tutti, ne ho realizzato qualcuno, ma oggi proprio con i miei professori d'orchestra stavamo mangiando e quindi si scherzava, dice stiamo facendo questo spettacolo, dice ma quando pensi di ritirarti? Io ho detto beh nel 2010 verso gli 80 anni quando saremo abbastanza vecchi, dico voi mi raccomando abbassate le tonalità, io prenderò la chitarra e canteremo ancora, speriamo di cantare ancora L'uomo in fracca, perché è una canzone che io amo particolarmente, allora mi piacerebbe tanto concludere la carriera così l'ultimo spettacolo con questa canzone. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.